cosa vuoi da me? Vito fatto che mi porti via dalle mie passioni, le emozioni che ora non sento mie. Dimmi cosa vuoi da me? Alienante monotonia. Dammi un buon motivo per resistere. Dimmi cosa vuoi da me? Folle corsa dentro un metro. E scende sale questa gente che vuole un po' di più. Dimmi cosa vuoi da me? Anche il sesso non è facile. Messo all'asta la voce in merceria. Mai di nascere, ma quando sei in pista balla e basta e non ti puoi arrendere. Chiunque sai dice così ed io non smetto di combattere. Dammi un buon motivo per resistere. Cosa vuoi da me?